nei tuoi occhi mi specchio, nelle tue labbra che lente scivolano giù. E mi bagna il tuo calore che resta nelle parole che lascio. Per me sei silenzi e rumore, sei un soffio di voce che parla all'anima di un sognatore. Questa notte sarà diversa. E ogni cielo, ogni goccia di pioggia ricorda te, i tuoi occhi, i miei occhi ti dissi, puoi fidarti di me. E ritorno a camminare su strade lasciate nascoste, perdute da un secondo senza noi. E riguardo il rosso del vino, mi perdo, cambio il colore del vento che quando ci sei tu non è solo aria. Sognatore, questa notte sarà diversa, già lo so. Sotto istanti di stelle, di luci che brillano, e ogni cielo, ogni goccia di pioggia ricorda. Ti dissi, puoi fidarti di me. Puoi fidarti di me. Oh. noi.